Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Cambiamenti e solidarietà potrebbero essere queste le due parole guida di questo appuntamento settimanale con la Caritas diocesana. Vi riferisco le parole del direttore Don Luca Facco pubblicate sul nuovo rinnovato mensile di comunicazione della Chiesa Padovana, si chiama Lettera Diocesana, è raggiungibile proprio dal nuovo numero anche liberamente senza iscrizione, letteradiocesana.diocesipadova.it. Scrive Don Luca, citando il documento della Caritas italiana e le delegazioni Caritas, sul tempo e il metodo per capire la Chiesa italiana dopo il convegno di Firenze e il servizio pastorale delle Caritas diocesane. Cita Don Luca un passaggio di questo testo: il paese, l'Italia e le nostre comunità continuano a cambiare. Questo cambiamento è pervasivo, penetrando nei nostri comportamenti in maniera tale da modificarne profondamente la struttura, a volte senza averne la piena consapevolezza. Le povertà, le migrazioni, il mondo giovanile, le nostre comunità si stanno modificando progressivamente, ma spesso le nostre parole, gli schemi entro i quali noi agiamo rimangono ancorati a categorie interpretative che non sono del tutto in grado di capire il presente, non consentendoci di guardare la realtà per quella che è. Contemporaneamente le nostre comunità stanno cambiando al loro interno, affrontando passaggi non facili come la diminuzione del clero, la ridefinizione dei confini, la minore partecipazione, la maggiore fragilità e debolezza dei legami, la difficoltà a stabilire reti di comunità e collaborazione con altre agenzie presenti nel territorio. Di fronte a queste sfide, allora siamo provocati ad attivare nuovi sguardi e nuovi atteggiamenti per vivere e stare dentro la complessità e il cambiamento, appunto una delle due parole chiave. Per molti anni abbiamo sottolineato la necessità di mettere al centro i poveri, oggi invece ciò che fa la differenza è la relazione con il povero, che non è solo un destinatario a cui offrire dei servizi e dell'attenzione, ma è una persona con cui entrare appunto in relazione, a cui posso offrire qualcosa, ma dal quale posso anche imparare, crescere e ricevere, dal quale posso anche essere stimolato, disturbato, arricchito. Questo atteggiamento ci può aiutare a stare dentro alle nuove sfide di oggi, non come qualcosa da aggiungere nella nostra pastorale, ma come segni che la vita, che il buon Dio ci offre, ci presenta per crescere e rinnovarci. L'incontro col povero, chiunque esso sia, ci può aiutare a diventare più chiesa, una chiesa più evangelica ed essenziale. Don Luca racconta di un viaggio fatto in occasione della sua formazione in seminario, il St. Martin in Kenya, lo abbiamo già citato più volte anche da questi microfoni, una consapevolezza, dice Don Luca, che mi sono portato a casa e che mi aiuta nel quotidiano. Di fronte alle sfide presenti in comunità, il St. Martin non hanno cercato nuovi donatori esterni, ma prima di tutto hanno guardato con occhi nuovi alla comunità. Ci sono risorse interne, inespresse, ci sono potenzialità che noi oggi non riusciamo ancora a vedere. Come attivare e sensibilizzare la comunità? La comunità stessa può esprimere delle capacità, delle potenzialità, delle soluzioni che mai noi da soli avremmo immaginato. Condividere le difficoltà con la comunità può aiutare a far emergere soluzioni inedite e sorprendenti. Questa consapevolezza dunque ci aiuta a guardare con occhi nuovi e fiducia rinnovata alle nostre comunità, che sono capaci di potenzialità e risorse non ancora espresse. Sta per iniziare la Quaresima di Fraternità, ne parleremo in altri spazi con l'Ufficio di Pastorale della missione, e questa iniziativa ci aiuta a guardare in faccia non solo alle nostre comunità ma a tutte le comunità, sostenendole nei loro processi formativi e comunitari. Oggi l'annuncio di fede, dice ancora Don Luca, passa attraverso questa prima consapevolezza. Prima di ogni altro ruolo, identità, etichetta o immagine, tu sei figlio di Dio. Anche se hai attraversato, stai attraversando passaggi dolorosi, fallimenti, difficoltà, tu sei e rimani per sempre figlio di Dio. Questo è il buon annuncio che si esprime nel battesimo e si realizza nell'Eucaristia. Per tenere viva questa consapevolezza, la comunità continua a proporre cammini formativi. Da questa consapevolezza cresce una comunità che è capace di diventare laboratorio di fraternità. Il paese, le comunità, le persone cambiano, a noi tocca guardarle con lo sguardo e la fiducia con cui Gesù le guarda e le accompagna. e raccontando di un'esperienza molto concreta. Siamo in Ecuador, lo ha raccontato Don Mauro Darin Fioretto, missionario Fidei Donum in Ecuador. Ecuador colpito meno di un anno fa, 16 aprile, da un fortissimo terremoto, 7,8 gradi della scala Richter, con centinaia di repliche nei giorni successivi. Molte zone della costa dell'Ecuador sono state sconvolte, ma anche le zone circostanti hanno avuto un bilancio pesantissimo. Molte case sono andate perse. La Caritas diocesana locale di San Giacinto ha deciso subito di aiutare a medio e lungo termine le Caritas parrocchiali delle diocesi di Portoviejo e Esmeraldas. È iniziata così un'avventura inedita, racconta Don Mauro, di cui noi stessi riportiamo i segni. Un po' di mal di schiena a fine giornata arriva. Sarà che non abbiamo fisico da scaricatore di porto, sarà che gli anni avanzano, sarà che il camietto è bello spartano, il camioncino, e 4 ore di andata e 4 di ritorno non si fanno sentire, però alla fine riusciamo a portare un po' di aiuti. 1,5 tonnellate appunto di aiuti raccolti grazie a tanti amici sensibili e generosi delle parrocchie padovane e da Asa Onlus. $30,000 per acquistare il mezzo, finora una quindicina di viaggi, caricando soprattutto riso, scatolame, kit di igiene, acqua e materassi. Nel primo viaggio, in aprile scorso, anche una bara, e con tanti morti anche la bara è stato un aiuto. L'idea che ci avete aiutato a realizzare non è tanto di aiutare, ma di continuare ad aiutare, scrive Don Mauro. All'inizio tutti cercano di fare qualcosa, ma il problema è appunto il medio e lungo termine. Lo stiamo vedendo anche in Italia, appunto con il terremoto della zona centrale del nostro paese. Per questo si è cercato di organizzare un gemellaggio con due delle parrocchie colpite, la Dolorosa di Manta e San Esteban di Charapotó. Nelle parrocchie della diocesi di San Giacinto stiamo stimolando perché si continui a sensibilizzare la gente a donare viveri, vestiti, denaro e tempo. Alcune cose si possono caricare, il tempo no, ma è quello che serve forse più di altro. C'è molta generosità e voglia di aiutare, spesso è difficile canalizzare e organizzare le parrocchie e i parroci. Piccolo episodio nel viaggio di agosto: cassone mezzo vuoto, e così dice Don Mauro, chiamo gli agricoltori dell'associazione Nuevos Horizontes Cacoteros, amici che come pastorale sociale diocesana di San Giacinto abbiamo aiutato in questi anni, per chiedere se potevano, per riempire appunto il camietto, vendere 20 caschi di verde, che sono specie di banane grandi non dolci, si cucinano come le patate. Siamo andati 2 ore dopo la chiamata e tutto era pronto, caricato il verde sul cassone. Gli ho chiesto di dirmi quant'era, mi ha detto, scusandosi è davvero con vergogna, padre, non se ne parla, lo regalo, e disculpa, scusa, perché non ho avuto tempo di andare in cerca dei caschi migliori, sono abituato a dare il meglio ai poveri. Questa esperienza appunto condivisa da Don Mauro Darin Fioretto, missionario Fidei Donum in Ecuador, nell'emergenza terremoto che ha colpito il paese sudamericano. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.